dentro di cuore. Io non voglio vedere quel volto, io ascolto il nu dopo quell'ombra così. Scenderò, il più indicato, ed è il mio cuore, il più indico scenderò.